Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'era una volta l'AIDS e purtroppo c'è ancora. L'infezione che ha dominato le pagine dei giornali e anche le paure degli uomini e delle donne di tutto il mondo per tutti gli anni 90 sembra oggigiorno svanito un po' nel nulla. Invece gli esperti continuano a dire che non si può e non si deve abbassare la soglia di guardia. L'allarme sanitario sociale rimane molto alto, anche se molte cose nel frattempo sono intervenute e hanno cambiato la percezione sociale di una malattia che impone a ciascuno di noi di avere le migliori e più aggiornate informazioni, perché proprio come diceva una famosa campagna di prevenzione, se lo conosci lo eviti. Ne parleremo oggi. Se avete dubbi, domande, se volete raccontarci la vostra esperienza, chiamateci sin d'ora all'800 24 00 24. Oggi 1 dicembre, la giornata mondiale dell'AIDS, argomento difficile che può infastidire, spaventare, far cambiare canale, comprendo, e rischio. Perché io oggi vorrei chiedervi: pensate che l'AIDS non vi riguardi? La risposta è errore. Sposo lo slogan della campagna AIDS, che in modo molto diretto ci mette davanti al problema, cercando di farci comprendere che bisogna avere la consapevolezza dei rischi e soprattutto capire che la scarsa informazione e il silenzio ci fanno rischiare molto. La sessualità è una parte importante della nostra vita e credo che compito di una trasmissione che parla di salute, o meglio di benessere, sia quello di far capire quanto sia importante tutelarla e proteggerla per viverla serenamente, consapevolmente, in tutta sicurezza. Non è solo un problema di prevenzione, ma anche di educazione allo stare bene. Qui in studio con me il professor Mauro Moroni, docente di malattie infettive all'Università di Milano e presidente AIDS Lombardia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie. Di AIDS non si muore più, forse, ma di HIV ci si ammala ancora. Partirei da qui, professore. Grazie. Grazie anche per la disponibilità della rete a parlare almeno una volta all'anno di un argomento che a noi medici, infettivologi, epidemiologi continua a preoccupare. Parto con un dato sul quale si basano le nostre preoccupazioni. In Italia si infetta una persona ogni 3 ore. Quindi noi iniziamo la trasmissione adesso, la finiremo tra un'ora. Tra un'ora ci saranno in Italia 3 persone sieropositive in più. E da qui a domani mattina 30 persone sieropositive in più. Non si può chiudere gli occhi di fronte a un problema come questo, tenendo presente che queste persone che contraggono l'infezione non si libereranno più del virus. La loro vita potrà continuare anche serena, con un'ottima qualità, fino a un'età paragonabile a quella di tutti noi, però sottoponendosi a cure che sono molto efficienti, ma non sono neanche acqua fresca, e con una limitazione delle loro attività sessuali. Professor Moroni, io comincerei anche a descrivere un evidente cambio di abito dell'infezione da HIV dagli anni 80 ad oggi. Allora si parlava di gruppi a rischio, oggi siamo tutti potenzialmente a rischio, etero, no, giovani, meno giovani. Per questo credo che lo slogan dell'AIDS centri proprio il problema. L'AIDS riguarda tutti. Purtroppo sì, il virus ha una sua intelligenza, se si può dare un'intelligenza al virus. All'inizio ha approfittato di situazioni del tutto particolari, come la tossicodipendenza per eroina, che nel mondo occidentale ha dilagato negli anni 70 con l'uso di siringhe in comune, quindi si verificavano vere e proprie microtrasfusioni giornaliere con passaggio del virus da un tossicodipendente all'altro. Poi il virus ha capito che il futuro non era lì, in quanto fortunatamente questo tipo di tossicodipendenza si è esaurito ed ha imboccato la strada della trasmissione eterosessuale, che è molto meno efficiente rispetto all'uso della siringa in comune, ma che interessa la totalità della popolazione sessualmente attiva. Quindi oggi l'infezione da HIV è un'infezione a trasmissione sessuale, omo ed eterosessuale. Uomini e donne. E a proposito di donne, Dopo 30 anni dall'inizio dell'epidemia, sono quasi 16 milioni nel mondo le donne affette da HIV, la maggior parte in età fertile. Per queste ultime, il virus è diventato la principale causa di malattia e morte. In Europa è in costante aumento il numero di donne colpite. Il 35% delle nuove diagnosi riguarda infatti la popolazione femminile. Nel nostro paese si registrano ogni giorno 12 nuovi casi di infezione, uno ogni due ore. Almeno un terzo riguarda le donne. Il 70% delle donne viene infettato da un partner stabile, mentre il 76% dei maschi contrae il virus durante un rapporto occasionale. E in linea con noi abbiamo la professoressa Antonella D'Arminio Monforte, professore ordinario di malattie infettive, clinica di malattie infettive tropicali al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria al Polo Universitario Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Emergenza donna. Le donne sono più vulnerabili degli uomini di fronte al virus. Perché? Sicuramente la risposta è sì, e lo sono per svariati motivi. Sicuramente ci sono dei motivi biologici, ma anche dei motivi culturali e sociali. Su quelli biologici si può dire che la possibilità di contagiarsi attraverso un rapporto con una persona HIV positiva è di gran lunga superiore se la persona HIV positiva che trasmette è un uomo alla donna rispetto al viceversa. Questo perché anatomicamente la superficie vaginale, della mucosa vaginale, è ovviamente ben più estesa della superficie della mucosa peniena, e quindi c'è proprio anche una questione semplicemente anatomica. Però è anche vero che ci sono delle motivazioni che vanno al di là di questo aspetto anatomico, e sono sicuramente la minor possibilità di contrattare il rapporto sessuale da parte della popolazione femminile, la richiesta dell'utilizzo del profilattico è ovviamente una richiesta che la donna deve fare all'uomo e che dipende ovviamente dall'uomo poi esaudire o meno, e questa minor capacità di contrattazione non è solo vera nelle popolazioni del sud del mondo come nelle donne africane, in cui è stata emersa molto, molto chiaramente, ma anche da noi in Italia, come dimostra bene questi dati che avete citato, che sono dati della Corte Icona, una corte nazionale di persone HIV positive, in cui si evince che le donne si infettano per il 70% dei casi dal loro proprio partner stabile, e mentre l'uomo si infetta per il 75% dei casi attraverso rapporti occasionali. Quindi in qualche modo questo dato è un dato che parla da solo. Parla da solo. Grazie alla professoressa Antonella D'Arminio Monforte per essere stata con noi. Io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Ringrazio lei. Professor Moroni, è importante quindi non sottovalutare il problema, anche spesso si arriva, anche perché spesso si arriva alla diagnosi in ritardo, e il tempo fa la differenza. Questo è un punto molto importante. Ciò che è venuto a mancare in questi anni è un po' la percezione del rischio. Noi oggi sappiamo che non usare la cintura di sicurezza in automobile ci espone al rischio di traumi importanti anche in un semplice tamponamento. Non si pensa più che un rapporto sessuale con una persona che si è conosciuto, un rapporto bello, gratificante con una persona dall'aspetto perfettamente sano che si è incontrato occasionalmente, può portare con sé il rischio della trasmissione, perché le persone sieropositive che hanno contratto l'infezione che ospitano il virus per lunghi anni stanno benissimo, non hanno nessun aspetto che possa fare riconoscere una situazione di questo tipo, quindi possono trasmettere il virus inconsapevolmente. Ora, è importante che chi ha avuto un'esperienza sessuale completa non protetta, anche una sola volta, con una persona che di cui non si sa lo stato di sieropositività, si accosti al test. Questo è nel suo interesse preciso, perché curarsi in tempo vuol dire aumentare enormemente la qualità e l'aspettanza di vita di queste persone. E poi anche un interesse della collettività, perché altrimenti c'è il rischio, come sta accadendo oggi, di queste nuove infezioni che sono legate nella maggior parte dei casi a contatti con persone che non sanno di essere sieropositive. A proposito di informazioni, passiamo in rassegna molti falsi miti che ancora ruotano intorno a questa malattia. Cosa ne sappiamo realmente? Cosa ne sanno anche soprattutto i nostri ragazzi? Come da genitori li informiamo laddove e se la scuola non arriva? Il compito dei genitori è sempre quello di far crescere degli adulti consapevoli. Abbiamo messo alcune di queste domande anche sul nostro profilo Facebook, chiedendo di misurare un po' le vostre conoscenze. Ascoltiamo. Attraverso i rapporti sessuali completi non protetti, attraverso starnuti, colpi di tosse, lacrime e saliva, con le trasfusioni di sangue, bevendo dallo stesso bicchiere o mangiando nello stesso piatto con persone portatrici del virus, utilizzando aghi o strumenti non sterili per iniettare droghe o per eseguire tatuaggi, pedicure o manicure, vivendo nello stesso ambiente di un siero positivo, utilizzando servizi igienici pubblici, rubinetti, telefoni o trasporti pubblici, il rasoio o lo spazzolino da denti di altre persone, attraverso la puntura di zanzare. Il virus si trasmette solo con rapporti omosessuali, solo con frequenti rapporti occasionali. Intanto invito gli ascoltatori ad intervenire all'800 24 00 24, ma professor Moroni, passiamo in rassegna rapidamente i punti della nostra scheda per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Dunque, attraverso i rapporti sessuali completi non protetti, sicuramente sì, questa oggi è la via di trasmissione più comune. Se non si protegge le mucose nei confronti di un rapporto sessuale, il virus può passare. Starnuti, colpi di tosse, urine, feci, neanche da parlarne. Penso che oggi, dopo 30 anni, bisogna essere assolutamente certi e sicuri che una persona sieropositiva non rappresenta un rischio per nessuno se non attraverso i rapporti sessuali. Oggi le trasfusioni sono sicure perché il test identifica i portatori, i test di ultima generazione anche mette in evidenza la presenza del virus in persone che si sono infettate da poco. Bevendo, mangiando, siamo al punto di prima, non è così che si contrae il virus. Aghi o strumenti non sterili, questo sicuramente ha rappresentato la via di trasmissione più efficace negli anni 80. Tatuaggio, pedicure o manicure, qui bisogna rivolgersi a strutture adeguate, certificate e autorizzate a svolgere queste manovre, perché è chiaro che se non c'è igiene questi strumenti possono trasportare micro quantità di sangue da una persona all'altra. Vivendo nello stesso ambiente, no. Utilizzando servizi igienici, rubinetti, telefoni, no. Rasoio, spazzolino da denti di altre persone, ma questo rientra nell'ambito della igiene comune. In ogni caso ognuno deve avere il proprio rasoio e il proprio spazzolino, perché ci sono tante altre possibili infezioni virali o batteriche che possono essere trasmesse in questo modo. Le zanzare sono assolutamente innocenti. Scagionate. Il virus si trasmette attraverso qualsiasi rapporto sessuale completo penetrativo, sia omo che eterosessuale. Naturalmente, più numerosi sono questi rapporti, più si ha la probabilità che l'infezione passi. Però la casistica è molto ampia, in funzione di infezioni trasmesse anche da un solo rapporto sessuale. In linea con noi abbiamo Renato, ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Buongiorno Renato, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, come vedete per la trasmissione. Niente, io la mia esperienza è venuta che ho un cognato, oddio, è nato in cielo ormai, è morto proprio per l'HIV all'età di 45 anni, perché ormai si era logorato da tutte le parti. La mia esperienza viene dal fatto che comunque io ce lo comunicò il Natale del lontano 2006, siamo stati, dopo una settimana che sono stati con lui, ci ha comunicato questa cosa. Io, preso dalla mia ignoranza, perché quella è solo ignoranza, paura, perché ho usato un suo rasoio, ho usato il bagno dove andava lui, tutto quanto, e feci prontamente il test e niente, li riscontrai che non avevo nessun problema di quel tipo. Però comunque non vuol dire, è meglio sempre fare il test come dice il dottore, perché così almeno noi non sappiamo quante cose magari possiamo fare che possiamo sbagliare, ed è meglio approdare, diciamo, capire bene che cosa vuol dire, cosa possiamo rischiare, ecco, giusto fare anche il test per questo motivo. E adesso loro, la mamma ha una figlia che grazie a Dio non ha preso l'HIV, nonostante lui avesse l'HIV, e la bambina ha 17 anni, sta benissimo, ecco, basta avere le precauzioni giuste. La bambina è stata fortunata in quel senso, perché sono fortuna, penso io, adesso io non so con quale rischio la bambina poteva aver contratto anche l'HIV, visto che il padre comunque era positivo. Ecco, grazie Renato. La ringrazio molto per questa telefonata, perché viene proprio da una esperienza vissuta direttamente, con tutte le paure che conosco bene che circondano questi casi. Io vorrei richiamare l'attenzione su quanti esami ognuno di noi fa periodicamente per controllare giustamente tutta una serie di parametri clinici. Pensiamo all'emocromo, alla VES, al colesterolo, ai trigliceridi. Perché non inserire ogni tanto, in funzione ovviamente dell'attività sessuale di ciascuno, anche il test per HIV? Cerchiamo di superare questa barriera di diffidenza e di paura e di eccezionalità nei confronti di questo esame. Inseriamolo nell'ambito degli esami utili per una nostra vita serena. Matteo ci chiama da Varese, buongiorno Matteo, benvenuto. Sì, buongiorno, vi ringrazio per la trasmissione. Io volevo segnalare che mi capita di visitare spesso per lavoro paesi come Svizzera, Germania, Austria, e lì ciclicamente si fanno delle campagne di informazione sull'HIV. Prendi la metro in Germania, vedi i cartelloni che invitano i ragazzi a usare il preservativo. Lì si fa ancora prevenzione. In Italia è da tanti anni che non vedo più questa prevenzione. Io sono diventato adolescente negli anni 80, ero adolescente negli anni 80 quando è sorto il problema dell'HIV. Sì. Io, ancora prima di avere rapporti sessuali, io sapevo perfettamente, così come penso la maggioranza delle persone della mia età che in quegli anni sono stati bombardati letteralmente dalle campagne pubblicità progresso, mi ricordo tutte le pubblicità al tempo, fino agli 80, inizio anni 90. Poi c'è stato un vuoto. Io sinceramente ho dei dubbi che un adolescente di oggi sia preparato, sia a conoscenza dei rischi che può correre e delle precauzioni che deve adottare. È vero Matteo, noi abbiamo bisogno di informazione, di un'informazione capace di fare centro, capace di convincere gli inconsapevoli, soprattutto giovani e non solo, a verificare se sono portatori del virus. E campagne anche capaci di contrastare l'abbassamento dell'attenzione della popolazione, come diceva Matteo, nei confronti del problema. Lo chiedo a voi, quali sono le campagne, i messaggi che vi hanno colpito? Matteo ci diceva, ero adolescente negli anni 80, eravamo bombardati. Ecco, voi che slogan vi ricordate? Che slogan scrivereste ora? L'AIDS non si vede, ma sta crescendo. Perché si trasmette non solo attraverso sangue infetto, per esempio scambiandosi la stessa siringa. Ma l'AIDS si trasmette anche attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Adesso sembra che non ci sia più. Sembra. Solo perché se ne parla di meno, uno pensa, tanto a me non mi succede. Invece succede e come? Io il test HIV ho deciso di farlo. Vi abbiamo fatto ascoltare solo due degli spot che abbiamo così sentito in questi anni, perché vorremmo proprio concentrare la nostra attenzione su questo. Molti di voi si ricorderanno, no? Uno dei primi spot ministeriali contro l'AIDS, siamo negli anni 90, negli schermi appare quell'alone viola, simbolo di una malattia che c'è ma non si vede. Da quel famoso spot sono ormai passati più di 20 anni. Toni, personaggi, situazioni sono cambiate. Stiamo andando bene? Abbiamo trascurato qualche cosa, secondo voi? 800 24 00 24. Dopo i mercati e il bene ne discuteremo insieme alla dottoressa Valentina Bazzarin, che intanto saluto, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, ricercatrice in sociologia della comunicazione al Dipartimento della Disciplina della Comunicazione all'Università di Bologna. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati in linea, stanno arrivando moltissime telefonate all'800 24 00 24. Io vi ringrazio perché questi sono temi un po' difficili, professor Moroni, da trattare, perché uno dice ma l'HIV fa paura, cambio, no? Perché parlarne? Ma oggi è un tema che può essere trattato con molta leggerezza, perché la mortalità per HIV è paragonabile a quella dell'influenza, al di sotto dell'8%. Quindi è un problema che si è completamente sdrammatizzato dal punto di vista dell'evoluzione clinica. Quello che a noi come medici ed epidemiologi dispiace è questo zoccolo duro di persone che continuano ad infettarsi con un virus che è tra i meno contagiosi che si conoscano. I rapporti sessuali sono qualcosa che interessano tutta la popolazione, però perché non stare un po' attenti? Perché non prendere quelle piccole misure? Perché non fare il test per sapere se si è sieropositivi? Questo porterebbe a costo zero l'estinguersi dell'epidemia senza bisogno del vaccino. E la prevenzione farebbe anche risparmiare molto il servizio sanitario. Beh, certamente questo comincia ad essere un aspetto non trascurabile, perché di soldi ce ne sono pochi. Una persona sieropositiva è abbonata a farmaci che costano, e attualmente i costi per gli antiretrovirali sono importanti. Sono costi che potrebbero essere utilizzati per patologie ancora poco curabili, per patologie ancora gravate da una elevata mortalità. Potrebbero essere utilizzati per la prevenzione. Prima un ascoltatore diceva giustamente che non si fanno più le campagne di prevenzione. Questo è sicuramente importante. Io penso però che non dobbiamo sempre chiedere che lo Stato faccia tutto. Facciamo qualcosa noi. E a proposito di campagne, in linea abbiamo la dottoressa Valentina Bazzarin. Dottoressa. Sì, di nuovo buongiorno. Che cosa, dalla famosa linea viola, che cosa è cambiato? Su che cosa ha puntato la comunicazione? Che cosa magari ha trascurato? Adesso abbiamo visto che è importante raggiungere i giovani, è importante raggiungere le donne. Che cosa si può fare di nuovo, di diverso? Per arrivare. Allora, vi ringrazio intanto moltissimo dell'invito alla vostra trasmissione, perché stamattina quando mi sono svegliata, ho fatto la mia rassegna stampa quotidiana e rassegna web, ho notato che il tema, nonostante oggi sia la giornata mondiale dell'AIDS, non è stato trattato né dai media mainstream né attraverso le comunicazioni più o meno formali, informali, sul web, e parlo di Facebook, come di Twitter, come dei più importanti blogger, anche quelli che di solito si occupano di informazione, comunicazione e pubblicità sociale. E questo mi ha molto stupito, e quindi, ripeto, mi fa molto piacere che invece voi stiate parlando del tema. Il problema principale in questo momento, e lo dico partendo da una serie di ricerche e di questionari che stiamo sottoponendo a tutta la popolazione in Italia, uno dei problemi principali in questo momento è che l'arena mediatica in particolare è abbastanza indifferente, è per non dire totalmente indifferente al tema AIDS, e tutto viene delegato all'informazione e la comunicazione istituzionale, che notoriamente vengono facilmente ignorate da un ascoltatore che non è consapevole, del tutto consapevole del fatto che la comunicazione che si sta facendo, l'informazione che si sta dando, è dedicata proprio a lui, al suo benessere. E questo vale per l'AIDS come per tutte le malattie sessualmente trasmissibili e per la prevenzione in generale. Cosa è cambiato? Era la sua domanda. È cambiato che se ne parla meno, quantitativamente meno. È cambiato che l'AIDS si è trasformato da una malattia terribile nello spot dell'allone viola a una malattia cronica, come stava dicendo giustamente il dottor Moroni. È cambiato che nelle scuole non si può fare educazione e prevenzione sulla materia sessuale, in materia di rapporti sessuali e sessualità. E mancano i fondi, manca la volontà politica, mancano gli insegnanti preparati su questo tema. E quindi non si può pensare che adolescenti e ragazzi, ma anche le donne, che sono la fascia di popolazione che più andrebbe informata su questo tema, non si può pensare che loro cerchino autonomamente le informazioni che non sanno. Quindi una mancanza di informazioni, di messaggi, però ci sono secondo me degli esempi virtuosi che ci aiutano. In linea con noi abbiamo Gabriele Rossi. Gabriele, ciao. Sì, buongiorno. Gabriele Rossi interpreta nella fiction Tutti pazzi per amore Raul, che è un ragazzo sieropositivo, e mi sembra molto interessante, professor Moroni, dottoressa Bazzarin, che una fiction abbia portato una storia di sieropositività descrivendo la vita di un ragazzo, Raul, un bel ragazzo giovane che ha una fidanzata da cui adesso aspetta un figlio. Raul, che cosa ha significato per te interpretare questo ragazzo? Cioè, Gabriele, che cosa ha significato per te interpretare Raul? Sì, la responsabilità l'ho avvertita da subito, fin da quando avevo saputo che il personaggio di Raul avrebbe dovuto sostenere la responsabilità di dover essere sieropositivo. La bellezza e il fascino di questo ruolo io l'ho avvertito dopo che la seconda serie andò in onda, perché ho riscontrato subito una grande utilità a livello sociale, indirizzando il messaggio prima di tutto a tutti quei ragazzi sieropositivi che purtroppo, spesso mi sono reso conto, vivo questa condizione in assoluta segretezza e in assoluto disagio verso una società che non è per niente pronta ad accogliere un ragazzo che eventualmente potrebbe dire sono sieropositivo. Mi hanno contattato una marea di ragazzi, appunto, soprattutto tramite Facebook, complimentandosi con l'impegno della fiction e del personaggio in particolare, che appunto affrontava il tema della sieropositività. Si sono sentiti rincuorati, anche perché la fiction proprio mira a sensibilizzare la popolazione su una condizione che oggi, per fortuna, come diceva anche la dottoressa, è stata cronicizzata a livello di malattia. Non è più HIV uguale AIDS uguale morte. Significa che una malattia, essendo stata per fortuna cronicizzata, e speriamo in un futuro non troppo lontano, anche insomma che si vada verso l'eradicazione o comunque un qualcosa di più fortemente terapeutico. Dicevo, il personaggio di Raul, appunto, è stato bello affrontarlo proprio per questo, perché ha avuto una utilità sociale enorme. Enorme, guarda. Buongiorno anche in questo momento. E poi, ovviamente, parliamo di prevenzione, di preservativo, che appunto io e Cristina nella serie utilizziamo in ogni rapporto. Poi nell'incidente è successo che appunto lei è rimasta incinta, tanta gente mi dice ma è una fiction, è una stupidaggine, perché un sieropositivo non può avere figli. Questa è una grande Ecco, sentiamo il professor Moroni. Cristina, la fidanzata di Raul, che cosa rischia? Ma questo è un tema molto importante, e ribadisco, è importante sapere se si è sieropositivi, perché oggi con le terapie si riesce a ridurre enormemente la infettività, per cui a una coppia non è precluso avere dei figli, sia da parte della madre sieropositiva, sia da parte del maschio sieropositiva. Si tende a non usare più quella tecnica del lavaggio dello sperma, eccetera. Quando una persona ha la carica virale soppressa, cioè una quantità infinitesimale di virus nel sangue da molto tempo, quindi è stabilmente con una carica virale bassa. La contagiosità attraverso i rapporti sessuali è assolutamente minima. È una cosa importante questa, è un traguardo importante. Le terapie vanno al di là del vantaggio clinico del singolo, ma una terapia ben fatta e fatta precocemente ha un ruolo sociale in questo momento. Ringrazio Gabriele Rossi per essere stato con noi. Bravo Gabriele, io ti vedo sempre. Grazie, complimenti. Contenta, grazie mille. Buona giornata. Grazie anche a te. Una buona giornata anche alla dottoressa Valentina Bazzarin. Essere e benessere. Siamo tornati, Piero dalla provincia di Cremona, 800 24 00 24. Buongiorno, sono Piero. Sì. Io volevo chiedere una cosa al dottore. Io 3 anni fa circa ho conosciuto il mio attuale compagno. Sì. Ti amo, stiamo benissimo insieme, eccetera. E circa un anno dopo ho scoperto di essere sieropositivo. Durante una serie di esami che ho dovuto fare per un intervento, insomma, ho scoperto di essere positivo. Adesso il mio problema è questo: io lo amo, sto bene con lui, è la persona della mia vita, però qualcosa è cambiato, io mi sono fatto. Non si sente. Pronto? Più. Piero è caduto, magari ci richiamerà. Andiamo a Davide da Napoli. Buongiorno, Davide. Buongiorno a tutti. L'informazione che volevo sapere è questa: per chi non fa frequentemente il test, sì. Come si scopre di avere l'HIV e quali sono i sintomi principali? Grazie. Chi non fa frequentemente il test deve fare frequentemente il test, perché quando compaiono i sintomi si è già in una fase di malattia. Malattia significa sintomi, significa che il virus ha avuto anni per lavorare dentro il nostro corpo, compromettendo il sistema immunitario. I sintomi sono tantissimi, ma non aspettiamo i sintomi. Allora, test, facciamo questo test. Chi deve farlo? Solo chi ha rapporti occasionali, chi anche ha un rapporto stabile. Io abbiamo il dato. È semplicissima, la domanda è semplicissima. Chi fa uso ancora di droga e usa una siringa in comune si espone ovviamente al rischio e quindi deve fare il test. Chi ha rapporti con persone, rapporti non protetti con persone sconosciute che incontra in una serie di circostanze che interessano tutti gli strati sociali, tutte le età della vita, è opportuno che faccia il test perché non sa se quella persona era sieropositiva o no. Chi ha un rapporto di coppia fisso con una persona sieropositiva, qui dipende molto dalla carica virale, cioè se quella persona è in cura con una viremia soppressa o no. È comunque prudente che periodicamente faccia il test e che abbia rapporti protetti. Sicuramente l'emergenza rappresentata da questo sommerso potrebbe essere superata se sottoporsi al test di sieropositività diventasse nel nostro paese una pratica normale, facilitata il più possibile per raggiungere anche le categorie più a rischio. In linea con noi abbiamo il professor Adriano Lazzarin, ordinario di malattie infettive e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. C'è un... E Mauro. Grazie. Eccovi. Professor Lazzarin, da febbraio, ma soprattutto in questi giorni, voi mettete a disposizione un test che rappresenta anche un po' una strategia innovativa di accesso al controllo. È un tampone e quindi, se vogliamo, accorcia un pochino i tempi, diminuisce un po' anche questa burocrazia. Ci vuole raccontare come funziona? E tra l'altro siete in questi giorni proprio a Milano, in 3 centri a disposizione per chi voglia sottoporsi a questo test. Sì, dal punto di vista tecnico è semplicissimo, funziona come tutti i test fatti su materiale biologico, in questo caso la saliva, con una reazione immunoenzimatica che colora la striscietta dove ci sono gli anticorpi, come altri test, sì. Grafinex, per un esempio comune, eccetera, eccetera. E il vantaggio è in quello che diceva lei, che è la risposta rapida, che si associa ad altri due, a mio parere, punti che vanno sottolineati, che sono l'incruenza, cioè viene fatto su saliva e non su sangue, quindi c'è una ovviamente maggiore disponibilità a farlo, e la terza cosa è che tendiamo ad offrirlo in una situazione sia ambientale che di accoglienza che lo sdrammatizza, cioè perché quello che non ha funzionato in questi anni è quello di pensare nel momento in cui viene il link così mnemonico che ci potrebbe essere qualche fattore di rischio che, e di una vera disposizione in quel momento o subito dopo l'opportunità di fare un test facile che dia immediatamente risposte, che risolva il problema che è passato per la mente. Certo, ci sono, questo... vogliamo dare gli appuntamenti milanesi e poi ci saranno anche appuntamenti nel resto d'Italia? Beh, l'appuntamento milanese ce ne sono due in essere, sono molto semplici. Il primo è quello lanciato in occasione del 1° dicembre, associato a una campagna di riallineamento, perché c'era stato l'anno scorso alla sollecitazione a fare il test, che è uno strumento per arrivare all'emergenza del sommerso, ma che è anche uno strumento nell'occasione per fare il counseling sulla modalità di trasmissione del virus e sulle modalità che ci sono per impedire di trasmettere il virus, che è un altro valore aggiunto. Assolutamente. Così, una parentesi, ma nei 20 minuti in cui il soggetto aspetta la risposta si fa un counseling attivo su quel che non avrebbe dovuto fare, su quel che non dovrà fare comunque. Quindi questo è importante. Quindi insomma abbiamo anche una strategia innovativa di accesso a questo test. Test più rapidi, sul nostro profilo Facebook metteremo gli appuntamenti milanesi. Professor Lazzarin, grazie per essere stato con noi. Buonissima giornata. Io vorrei ringraziare in chiusura tutte le associazioni che lavorano per fare informazione, dare assistenza ai soggetti sieropositivi, aiutare la prevenzione. Io vorrei citarle tutte. Abbiamo citato l'Anlice, ma aggiungiamo NPS, l'Arcigay, l'ILA, Nadir, tutte le associazioni locali. Vorrei dedicare però un attimo a un'associazione che opera, quest'anno compie 10 anni, e in linea con noi è il CESVI. Chiara Magni è in linea con noi, il responsabile della campagna Fermiamo l'AIDS sul nascere, proprio che festeggia i suoi 10 anni. Buongiorno dottoressa Magni, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Impegnato il CESVI nella lotta? Sì, nella lotta all'HIV, anche noi in questa importante battaglia per sconfiggere la pandemia. CESVI è un'organizzazione umanitaria italiana che dal 2001 è fortemente impegnata nella lotta all'HIV, soprattutto nei paesi dove questa malattia ha un'incidenza ancora molto alta, in particolare in Zimbabwe e in Vietnam. I nostri progetti sono ampi, diverse attività, ma in sintesi insomma ci occupiamo di fornire le terapie antiretrovirali a coloro che sono sieropositivi dopo averli testati. Insomma, in paesi poveri come lo Zimbabwe è difficile anche testare i soggetti, non solo curarli, insomma tante volte sono lontani, abitano in contesti poveri, rurali, molto lontani dalle cliniche, quindi bisogna raggiungerli. Abbiamo così ascoltato la campagna del CESVI. Io vi invito a sostenere le associazioni grandi, piccole, che operano in Italia, che operano all'estero. Mi piacerebbe citarle tutte. Un grazie agli operatori e ai volontari, alle persone che ci credono. Fate un click, andate a vedere che cosa stanno combinando. Professor Moroni, grazie a Chiara Magni, abbiamo proprio 30 secondi per salutarci in questo 1° di dicembre. E per darci appuntamento, speriamo non al 1° dicembre del prossimo anno, speriamo che parlare di HIV diventi una cosa che non fa paura e non... Grazie. Che cosa dire? Io penso che nella situazione economica difficile in cui ci troviamo, ognuno di noi deve assumersi un po' le proprie responsabilità. Parlo da nonno, parlerei da genitore, parlerei da insegnante nelle scuole, parlerei da medico di medicina generale. Facciamoci carico di informare. L'informazione sta alla base di ogni forma di prevenzione. Grazie, a domani. Essere e benessere.